Eccolo qua il professor Totaro. Lei vorrebbe aspettare adesso oppure vuole... È arrivato. Che facciamo ormai? Come vuole lui. Lei è... preferisce... Io avevo già predisposto quasi un, suo, un secondo momento per lei. Sì. No. Avete già iniziato? No. Sì, sì. No, lui ha iniziato. Io non ho iniziato. Con lui potrebbe cominciare adesso se lei oppure... Per me è differente. Sì. La correlazione, la sua è più prevalentemente storica, la sua? No. Cioè, non è né storico né... Allora... Come vuoi, se tu ti senti di parlare... Lei è stanco perché è appena arrivato? E... Oppure preferisce... Per... Sì. Io sono ben contento se cominci tu, non è che... Ma... Dite voi, cioè... Sono nel dubbio... Preferisci che parli il professor Totaro, forse Nicoletti sei tu, sì, che hai l'economia. Vabbè. Ecco, io ho la supervisione soltanto, tu hai l'economia del convegno. Allora ecco, chiediamo un sacrificio, pur essendo arrivato solo in questo momento, gli diamo il tempo di prendere fuori le carte e poi di elaborare la sua relazione. Io chiedo scusa già ai relatori, non ho veramente, nonostante tante altre belle doti che forse non ho, non ho senz'altro la dote di ricordare, non ho una memoria, per cui dovrei fare, lo so, la fotografia del professore, che cosa ha scritto, dove ha insegnato, eccetera. Lì è scritto il professore di Macerata, io non so come presentarla più di questo tanto, neanche lei, eppure abbiamo lavorato una volta insieme, anche lei a Padova è venuto il convegno di Santa Giustina, ma non ho memoria di per dire, sciorinare tutto l'elenco delle sue doti. Non sempre un male. Non sempre un male, ecco, allora se è un bene sono contento. Allora ascoltiamo il professor Totaro sul tema di povertà e ricchezza del politico nel moderno. Io sono arrivato giusto in extremis per via dei treni, come è facilmente sospettabile. Saluto, vedo che qui ci sono tante persone già note, molti amici. Quindi saluto e inizio con questa prima riflessione che non è né propriamente storica né propriamente teoretica, è un tentativo di ricostruzione di certe tendenze del politico nella modernità per fare scaturire poi qualche problema. E siccome poi ci saranno gli altri che verranno dopo di me, magari quello che uscirà come provocazione potrà anche servire per il seguito del convegno. E io penso che la questione che vogliamo affrontare nasca da una constatazione o da un timore immediati. La politica in molti settori del pensiero e della prassi contemporanea non fa mistero delle proprie tendenze a riporre in se stessa le giustificazioni davvero attendibili della sua impostazione e delle sue procedure. C'è quello che si chiama il discorso sull'autopoiesi del politico, un politico che si riproduce in base alle sue stesse regole, non ha bisogno di riferirsi ad altro, non solo per riprodursi, ma anche per giustificarsi. E allora gli investimenti sulla politica che partono da lontano e al di fuori della politica sembrano infrangersi sulla sua scorza dura e impenetrabile. E ciò tanto più quanto meno la politica oggi appare dotata di contenuti forti e quantomeno traguarda a mete ambiziose. E proprio quando il linguaggio della politica perde ogni solennità e si mostra sempre più aperto alle contaminazioni espressive e simboliche più disparate, dalla musica rock alle maggiorette e alla reviviscenza delle piramidi. Ora, si potrebbe dire che la durezza della politica oggi fa tutt'uno con la sua flessibilità. Tutto o quasi tutto può diventare materia dello scambio politico, purché sia capace di accrescere consenso, potere e autorità. Le operazioni dello scambio politico sono così in grado di vantare un titolo di legittimità se si traducono in incremento di potere e di autorità. Da dove tali risorse provengano può anche essere secondario. In fondo, la ricerca dell'amico, e qui sto parafrasando in certo qual modo Schmitt, ma in modo molto diverso da come questi termini sono presenti nel suo discorso, la ricerca dell'amico, dovunque si trovi, ha connotato il profilo quotidiano della politica molto più della definizione e della individuazione del nemico. Nella sua pratica dimessa e insieme onnipervasiva, la politica acquisisce ed esibisce però il suo carattere davvero sistemico, cioè la capacità di trattare con tutti e di inglobare tutto, purché ne derivi un vantaggio di potere e di autorità. Qui la secolarizzazione della politica sembrerebbe approdare al culmine dell'efficienza della macchina politica. Ben piantata in se stessa, proprio in quanto spregiudicata, è libera da presupposti o vincoli esterni. L'efficacia del funzionamento della macchina coincide con la semplicità dei suoi principi. Una politica povera di principi viene, così si crede, ad essere la più ricca di risultati. Se non che la nostra attuale messa in questione della politica nasce proprio da un disagio che non sono la filosofia o la teologia a esportare nella politica. Un disagio che la politica patisce in se stessa, anche se di esso appare immediatamente prosperare. Il disagio è quello che deriva dalla difficoltà sempre crescente della decisione. In politica è sempre più difficile decidere. E questo non per inabilità o pigrizie soggettive, che potrebbero essere sanate, come si ritiene da parte di alcuni, con terapie di decisionismo energico, ma perché non si riesce a pensare e fare una politica che si tematizzi e definisca in relazione a casi posti come decisivi. A rincarare la dose, l'arte del fare politica oggi sembra piuttosto consistere nel tenersi il più possibile a distanza dal caso decisivo, nel fare un uso minaccioso del riferimento ad esso e nel ricorrervi solo dopo averlo abbondantemente disinnescato della sua carica dirompente e dirimente. Si vuole vincere, insomma, senza conflitto, anche perché non si sa su che cosa e per che cosa dichiarare francamente un conflitto. Se non si è in grado di individuare casi che si possono assumere come decisivi, in cui ne va, per dirla con un po' di enfasi, delle ragioni del vivere e del morire, è solo decisionismo astratto, velleitario e strumentale il proclamare conflitto ciò che è un confronto sulle sfumature. Intendiamoci, qui non si vuole disconoscere la positività della sdrammatizzazione del conflitto politico e della deideologizzazione di questioni ricalibrate in chiave di fisiologia del sistema. Si vuole invece chiaramente affermare che una politica così ridimensionata rischia di non cogliere nella forma politica, nell'ambito della forma politica, problemi e materie della convivenza che non si prestano a entrare nel calcolo del vantaggio immediato, del potere e dell'autorità, e che pure sono determinanti per la qualità essenziale della politica. Sottodimensionandosi, la politica rischia di passare dalla ideologizzazione per eccesso a una ideologizzazione, per così dire, per difetto, consistente in un mancato riconoscimento di compiti e in una non assunzione di responsabilità. Una politica, insomma, priva di obiettivi e di impegni per i quali schierarsi ed essere in grado di fare delle scelte. Ha scritto recentemente Mario Tronti: oggi non sta di fronte a noi la necessità di una neutralizzazione dei contrasti, ma semmai quella di una riapertura dei conflitti, magari non più come bellum contra ostem. E ancora, in questo senso, cioè nel senso della neutralizzazione dei contrasti, la spoliticizzazione sulla base delle categorie del moderno è già avvenuta e non sappiamo calcolare quanto sia irreversibile. Dobbiamo assumere noi come filosofia dell'avvenire il progetto di una riteologizzazione dei concetti secolarizzati. Ecco, come vedete Mario Tronti non manca mai di pathos, ecco, però il problema è posto molto chiaramente. Dunque, arrivati al culmine della secolarizzazione dei concetti della politica, secolarizzazione che coincide paradossalmente con la spoliticizzazione o il venir meno della decisività della politica, si tratta di riteologizzare. E allora cosa può voler dire oggi riteologizzare? E mi collego alle domande del dossier, del cospicuo dossier che ci è stato inviato da Nicoletti, la cui conoscenza penso si possa dare per scontata in questa sede. Per rispondere alla domanda del riteologizzare in misura adeguata, dovremmo intraprendere una trattazione sistematica e insieme puntuale. Qui più semplicemente ci limiteremo a seguire alcune piste di riflessione, stimolati anche dalla ricca e rigorosa introduzione di Nicoletti, in modo particolare dalle sue provocazioni finali. In primo luogo, come il teologico ha influito sul politico, cioè sulla determinazione concettuale e strutturale della politica, lungo l'arco della modernità. Naturalmente abbiamo davanti a noi i percorsi tracciati dalla teorizzazione di Carl Schmitt, che non ci consentono di procedere a briglia sciolta. Non vorremmo nemmeno, però, restare completamente legati al giro della sua macina e ci proponiamo perciò di allungare la corda che ci vincola al confronto con lui. Cavalcando Schmitt e le sue categorie, ci mettiamo certamente in grado di disegnare il sistema delle regolarità della politica. Sull'onda di Schmitt, come ha scritto Gianfranco Miglio, e qui Pierangelo Schiera sarà d'accordo anche lui, forse è ormai possibile tentare, con una ipotesi più generale circa la struttura e la dinamica della sintesi politica, l'unificazione in un solo e comprensivo sistema delle verità parziali di Tucidide, la regolarità della ricerca del dominio esterno, di Machiavelli, la regolarità degli egoismi concorrenti, di Baudin, la regolare presenza in ogni sistema politico del capo decisivo, di Hobbes, il regolare carattere fittizio di ogni comunità e la radice ultima della rappresentanza politica, di Mosca e Pareto, la regolarità della classe politica, di Tönnies, la regolarità delle antitesi comunità-società, di Weber, la regolarità delle forme ideologiche di legittimazione e infine di Schmitt, la regolarità della contrapposizione amicus hostis. Tutto regolare, quindi, verrebbe da dire. Se non che nell'arco dello sviluppo del politico moderno si dà, insieme al catalogo delle regolarità, che qui è stato elencato anche con una citazione troppo lunga, si dà insieme al catalogo delle regolarità il catalogo più sommerso, ma non cancellabile, delle irregolarità. Accanto e in parallelo ai pensatori politici regolari marciano, spesso non visibili, che procedono lungo una sorta di filone carsico, i pensatori politici irregolari, da Tommaso Moro a Bloch, da Campanella a Mannheim. È questo il filone a cui faccio riferimento. Non è casuale, tanto per incarnare questo discorso in un esempio fin troppo facile, che all'incirca nel tempo in cui viene alla luce il principe di Machiavelli, gli fa da pendant l'utopia di Tommaso Moro. C'è una biforcazione agli inizi del moderno per quanto riguarda il politico. Allora, mettiamo le carte allo scoperto. Se influsso del teologico vestato nella costruzione del politico nella modernità, esso non si è espresso in modo univoco e lungo una direzione unilaterale, pur a partire da una matrice comune. Questa affermazione merita un chiarimento e un approfondimento. La matrice teologica comune del politico moderno può essere considerata innanzitutto l'idea di salvezza. Essa è con tutta evidenza lo sfondo onnipresente del contratto sociale di Hobbes. L'idea della salus e della pax è per Hobbes la leva risolutiva dello stato di bellum omnium contra omnes. Potere e autorità sono perciò chiamati a rappresentare in modo essenziale e ultimamente fondativo l'idea della salvezza. A partire da questa base essenziale, che è l'idea di salvezza, si legittimano sovranità esclusiva o assoluta e forma istituzionale autoritaria. Ma già la puissance absolue et perpétuelle che Jean Bodin attribuisce al sovrano nel libro primo della Repubblica è, come si sa, in funzione della pacificazione e della salvezza civile. D'altra parte, che il paradigma della salvezza stia in cima anche ai costruttori di utopie, agli inizi della modernità, può essere detto con certezza ancora più granitica. Tirando le somme di questo chiarimento, si può dire che il politico moderno, agli effetti della sua costituzione, si viene definendo intorno al riconoscimento della decisività della salvezza come problema urgente della convivenza civile. Il paradigma della salvezza viene però diversamente declinato nel filone del pensiero politico della ricerca delle regolarità e, se si vuole, dell'ordine reale o almeno possibile, e nel filone del pensiero politico della ricerca utopica o dell'ordine solo sperabile, se non proprio impossibile. Ma non bisogna essere schematici in questa distinzione. Un pensatore molto realista come Max Weber diceva che bisogna tendere all'impossibile per realizzare il possibile, che le utopie di oggi possono essere la realtà di domani. Lungo la curvatura del politico delle regolarità, il riconoscimento della decisività della salvezza viene inesorabilmente decantato delle sue valenze di trascendenza ontologica e di trascendimento storico. Il quadro della salvezza possibile, quella che interessa al politico delle regolarità, è inevitabilmente il quadro della salvezza biologica. L'evitare che la convivenza si trasformi nella prevaricazione e nella soppressione reciproca, nella soppressione fisica. Questa riduzione inevitabile della salvezza al livello delle garanzie di sicurezza vitale è d'altronde resa necessaria dal pericolo che un'interpretazione ricca ed eccessiva della salvezza, pensiamo alle guerre di religione, trascini con sé conseguenze distruttive proprio sul piano della certezza esistenziale, cioè sul piano della certezza di vita. Una trascendenza, una salvezza carica di riferimenti non puramente biologici e una salvezza politicamente pericolosa. Solo in una intesa sul significato minimale della salvezza è dato di raggiungere un criterio universalistico che spiani la via alla autorevolezza del politico. Perciò il politico moderno ha bisogno di assumere in sé l'idea teologica di salvezza, ma al tempo stesso ha bisogno di decapitare la rappresentazione della salvezza dei suoi significati, per così dire, eccessivi, e quindi della sua proiezione in una sfera di trascendenza riguardo alla quale, al posto della intesa possibile, subentrerebbe la discordia radicale. La salvezza viene allora incorporata nel raggio della potenza del sovrano terreno e depurata dei suoi connotati di trascendenza. La Imago Dei deve essere rimpiazzata dalla Imago Principis. Infatti, se il riferimento alla Imago Dei può scatenare la guerra, il riferimento alla Imago Principis e alla sua sovranità assoluta può garantire la pace. Il destino di secolarizzazione e di immanentizzazione della vicenda politica nel moderno, nel suo filone prevalente, il filone dell'ordine, è perciò già inscritta, questo destino di secolarizzazione e di immanentizzazione, è già inscritto nella modulazione delle battute iniziali della vicenda del politico. Questo destino, inoltre, non può non delinearsi come destino virtuoso e progressivo. Virtuosamente progressivo, potremmo dire. Dal momento che il risucchio del politico nella trascendenza teologica è paventato come fattore di delegittimazione e destabilizzazione, e come minaccia di stravolgimento delle regole. A questo proposito, non penso che si possa scambiare la prerogativa di trascendenza della decisione del sovrano rispetto all'impianto normativo e legislativo come un permanere nell'alone della trascendenza teologica. Piuttosto, ciò mostra che la trascendenza teologica, con le sue figure e i suoi simboli, viene continuamente, per così dire, drenata nel consumo di una sovranità immanente e secolarizzata. Il giacimento teologico del politico si assottiglia fino a farsi inconsistente. Al termine del processo, la legittimazione del politico dovrà affidarsi sempre più al consenso derivante dall'offerta di beni e risorse materiali di natura particolare. La logica dello scambio politico, di volta in volta verificabile e controllabile, è il supporto di un dispositivo che si riproduce in chiave empirico-pragmatica. Ma oltre alla metabolizzazione e espunzione conseguente a tale metabolizzazione, oltre alla metabolizzazione del teologico, il politico moderno, in quanto costruzione di regole per la convivenza ordinata, è costretto a un'altra riduzione omessa tra parentesi, vale a dire è costretto alla riduzione o alla epochizzazione dell'etica. La politica, cioè, non può essere per la vita buona. Costruzione dell'ordine, degli stati ben ordinati, diceva Machiavelli, e edificazione etica si escludono. Gli stati non si mettono in ordine né con i paternostri, né con la benevolenza o i pii sentimenti, ma lasciando agire anche la bestia, cioè la golpe e il lione. L'uomo politico non può coltivare la presunzione di essere uomo etico, tranne a ricavarsi la sua peculiare nicchia etica nella stessa accettazione del suo congedo dall'etica. Ciò è sinonimo del sacrificio personale alle potenze demoniache del politico, come evidenzierà Meinecke, oppure, come sottolineerà Weber, della coerenza non ai valori, dei quali chi agisce politicamente non può comunque fare a meno, pena il non riuscire a indicare una causa nella quale aver fede. Ma non si tratta di coerenza ai valori che pur l'uomo politico deve avere, la politica pura di potenza da Weber non è concepita, ma si tratta di avere coerenza rispetto alle esigenze dettate dal calcolo dei mezzi effettivamente disponibili. Cioè si tratta dell'etica della responsabilità e non dell'etica del valore. Ma la vicenda del rapporto tra il politico e l'etico non è una vicenda del tutto isomorfa a quella del rapporto tra il politico e il teologico. Infatti, se all'inizio dell'impresa politica moderna il politico è costretto a ostracizzare l'elemento etico per non disattendere i suoi scopi propri, successivamente, all'interno dell'interpretazione secolarizzata della salvezza, di cui prima si è detto, esso registra e recepisce connotazioni via via crescenti di sostanza etica, formalizzandole nel linguaggio dei diritti fondamentali e altresì nelle formulazioni normativo-legislative. Certo, l'etica che il politico moderno può recepire non è quella delle virtù classiche e quindi non è nemmeno l'etica che conduce alla vita buona e attraverso la vita buona alla vita felice e beata. L'etica entra a costituire la fisionomia del politico, come si dispiega nella modernità, nella misura in cui non deborda dall'orizzonte della vita conforme al benessere, vale a dire dall'orizzonte dell'ideale laicizzato della salvezza, ancora una volta. Basterebbe, io credo, seguire le linee di evoluzione della concezione contrattualistica dello Stato e della politica per vedere come il programma contrattualistico, si pensi ad esempio al passaggio da Hobbes a Locke a Rousseau e Kant, il passaggio su cui si ferma sempre Weka nelle sue riflessioni sulla politica e sulla società giusta. Bene, questo passaggio da Hobbes a Locke a Rousseau e Kant mi sembra caratterizzato dal riempimento successivo di elementi morali che rendono sempre più ricco e partecipabile il testo del contratto politico. In tal modo il concetto di sovranità si stempera dallo schema monocratico iniziale nell'accordo universalistico di parti che non abdicano più ai loro diritti, come era in Hobbes, per esempio, ma piuttosto ai loro interessi. Poiché tra gli interessi particolari la visione contrattualistica mette anche le concezioni del mondo o i fini riguardanti i piani di vita di cui ciascuno è portatore, l'eseguibilità del contratto esige necessariamente la neutralizzazione di tali concezioni del mondo e dei fini riguardanti i piani di vita. Il coefficiente etico compatibile con il contratto, che coincide con la giustizia intesa come equità, è quello della generalizzabilità delle posizioni di cui ciascuno è portatore. Tutto ciò conduce a escludere dal bene comune contrattabile, che è solo quello che si può perseguire, e quindi è quello sul quale l'accordo è possibile, istanze etiche che trascendono le condizioni di libertà o di libera disposizione di se stessi, a partire dalle quali ciascuno dovrebbe poi poter realizzare i propri piani personali di vita. Si può ritenere una tale introiezione dell'etica, introiezione che è insieme neutralizzazione dei punti alti dell'etica stessa, si può ritenere questa introiezione dell'etica da parte del politico come condizionata in radice da un vizio di insuperabile formalismo. Dico, si può, eh? Il contrattualismo, compreso il neocontrattualismo, sarebbe, secondo questa imputazione, sarebbe il parto dell'astrattezza della cultura illuministica. In realtà, venendo meglio le cose, una volta aperto il terreno delle condizioni di libertà da garantire a tutti e a ciascuno, si pongono le premesse effettive di una rivendicazione di diritti e di chance di vita per soggetti in carne e ossa, prima o in precedenza ai margini del patto societario o addirittura esclusi da esso. La storia della democrazia di massa e dello Stato sociale si colloca appunto nella traiettoria del processo di acquisizione, garantito insieme dalla mobilitazione dei soggetti e dalla recezione normativa, si colloca nella traiettoria del processo di acquisizione di diritti al benessere e alla prosperità. Su questo piano, cioè della conquista dei diritti di cittadinanza, il progetto illuministico è rimasto tutt'altro che astratto. Piuttosto, come direbbe Habermas, è rimasto incompiuto. L'incompiutezza del progetto illuministico di giustizia o di equità sociale denuncia però, a ben vedere, anche la estenuazione di questo progetto. Si tratta della estenuazione o della evanescenza del presupposto di fondo del progetto. Quest'ultimo, questo presupposto di fondo, risiede nella circostanza che i soggetti del patto sociale sono disposti ad accordarsi in un contratto in quanto egualmente incalzati da una situazione di scarsità. La minaccia della scarsità, Veca parla più propriamente di scarsità moderata, ecco, ma la minaccia della scarsità, che è il male da evitare o dal quale garantirsi, spinge all'accordo. Si dà quindi ancora una volta un caso più o meno consapevolmente assunto come caso decisivo, il quale agisce come vis a tergo della coesione politica, grazie a cui l'accordo è possibile. La scarsità o il timore della scarsità, da cui ciascuno si sente incalzato, si pone insomma come la condizione socialmente trascendentale dell'accordo. Ora, è proprio il carattere trascendentale di tale condizione di scarsità, a essere venuto meno nella vicenda civile del post-illuminismo. Nonostante da più parti non si sia mancato e si continui ad avvertire intorno ai limiti dello sviluppo e all'esito di scarsità sociale che ne deriva, penso a Fred Hirsch, per esempio, l'esperienza immediata della scarsità non è più di appannaggio universale. Dopotutto, potremmo dire, l'Amazzonia è lontana. La scarsità e la sua minaccia sono diventati un deterrente debole, o perlomeno remoto per i soggetti vincenti della storia. Un'etica pubblica fondata sulla paura della scarsità non ha perciò i numeri per fare molta strada, se non viene corroborata da motivazioni di natura ben altrimenti positiva. Occorre introdurre nell'etica elementi di positività e non di pura deterrenza. È pertanto un errore pensare che, anche se non intervengono motivazioni positive al bene pubblico, possa comunque permanere la disponibilità all'accordo e al contratto sociale. L'etica del contratto sociale esige alle sue spalle un'etica del riconoscimento reciproco, fondata sull'ideale della condivisione di una pienezza antropologica che sia per tutti accessibile. Altrimenti l'etica del contratto si frantuma nella microconflittualità degli egoismi concorrenti, a meno che non ci si voglia affidare ai prodigi della smithiana mano invisibile o alla ricomposizione in uno spirito oggettivo di marca hegeliana. Ecco, abbiamo delineato fin qui il percorso del rapporto tra politica e teologia e tra politica ed etica nella vicenda del moderno, in relazione al filone prevalente del politico moderno, che è il filone del politico dell'ordine. Abbiamo inteso esporre gli esiti di svuotamento del teologico e di estenuazione dell'etico a cui si perviene, pur senza ignorare l'importanza delle costruzioni positive, nel senso più letterale del termine, alle quali lo svuotamento del teologico e l'estenuazione dell'etico hanno condotto. Lo svuotamento del teologico e l'estenuazione dell'etico sono stati storicamente produttivi, produttivi di grandi istituzioni, innanzitutto, produttivi dell'ordine civile. Ora, se vale questa lettura di svuotamento del teologico e di estenuazione dell'etico, come è possibile riteologizzare in queste condizioni? Dove può essere rinvenuto il luogo di una trascendenza storicamente efficace e insieme non inghiottita dalla storicità? A questo punto il nostro discorso può rivolgersi, anche se lo faremo molto in breve, a quello che abbiamo chiamato il filone irregolare o carsico del politico moderno. Ciò che ci interessa mettere a fuoco è che nel versante utopico della elaborazione politica della modernità il paradigma della salvezza non è stato vincolato, innanzitutto almeno, alla funzione di legittimazione della sovranità e quindi non è stato piegato entro una curvatura che potremmo dire è verticistica. Nelle teorizzazioni dell'utopia è prevalente invece una versione orizzontale della immagine della salvezza, Cioè la salvezza si gioca nella rete dei rapporti interpersonali di comunità e non è messa a disposizione di una autorità che la eserciti dall'alto. Il compito di salvezza è così assunto nello spirito dell'utopia, potremmo dire, come costruzione quotidiana di soggetti eguali e non viene ceduto o espropriato a favore della soggettività assoluta del sovrano. Si ricorderà che fra gli abitanti di Utopia, nella narrazione che Tommaso Moro affida a Itlodeo, non si rispettano le leggi ed usanze perché c'è la paura che tiene a freno, ma invece per religiosa dedizione. Quella dedizione o spirito religioso, spinti dal quale, secondo l'enfatico racconto di Itlodeo, tutt'altro che pochi trascurano la cultura umanistica, non hanno ombra di interesse per le scienze, noi diremmo, non si concedono pause di raccoglimento studioso, continua il racconto, e noi diremmo più semplicemente, tutt'altro che pochi non si lasciano assorbire dagli specialismi, convinti che la felicità che ci aspetta dopo la morte si guadagni soltanto con l'operosità e le buone azioni verso il prossimo. Perciò alcuni assistono i malati, altri riparano le strade, spurgano i fossi, restaurano i ponti, scavano terra, sabbia, sassi, abbattono e segano tronchi, trasportano in città sui carri legname, granaglie e altre derrate e si comportano come servi, faticando peggio che se fossero schiavi, non solo in servizio pubblico, ma anche di privati. Beh, rischio di stacanovismo a parte, ciò che qui si tratta di cogliere è la tematizzazione di una forma di convivenza nella quale la rappresentazione della salvezza, della salus, mobilita l'impegno civile dal basso e non si deposita nell'aura del potere. Ma queste riflessioni non hanno tutta l'aria di essere solo edificanti? E poi dove andare a cercare l'oro colato dell'utopia nella società complessa o colonizzata, per dirla con Habermas, dagli imperativi sistemici dell'economia e del potere? Da dove una convivenza quotidiana, improntata anch'essa o pesantemente segnata dal calcolo dei vantaggi immediati ed egoistici, può trarre la spinta all'agire utopico o, se si vuole, all'agire mosso dal criterio della razionalità comunicativa? Ma viviamo certamente in tempi di coscienza infelice e non disponiamo nemmeno di un punto archimedeo a portata di mano. Io non mi metterò qui nell'impresa di sollevare il mondo, insomma. Ciò che possiamo evidenziare, al di là della gelida registrazione delle regolarità del politico reale e dell'enfasi ingenua sulla effimera irregolarità dell'utopia, ciò che possiamo evidenziare è il tratto doloroso di una schizofrenia nella quale l'ordine del politico attualmente prospera insieme al malessere che lo avvolge. Anche se all'apparenza di essere una proposta più che ovvia, non si può fare a meno di indicare nell'intreccio dei due filoni del politico moderno, il filone dell'ordine e il filone utopico, la posta in gioco alla quale non è lecito, per così dire, sottrarsi. E non è detto che il doveroso non possa coincidere con l'ovvio. E allora il riteologizzare può passare forse attraverso un rieticizzare. E per rieticizzazione del politico non intendo la questione pur importante ma ormai frusta della moralizzazione della politica o della questione morale nella politica. La rieticizzazione è piuttosto una doppia trasformazione. Una trasformazione dei modelli di convivenza nella sfera dei mondi vitali e una trasformazione delle forme organizzate entro le quali tali modelli possono acquistare continuità e durata. Ecco, si tratta di superare la dicotomia, almeno come punto di vista culturale, tra mondi vitali e istituzioni. Perciò la rieticizzazione del politico si esprime come capacità, insieme complessiva e capillare, di modificare le forme già costituite della regolarità dell'ordine politico, per introdurvi gli stimoli creativi di una convivenza più ricca e condivisa. Al di là di pudori lessicali, si può anche dire che è questo il campo di elaborazione di nuovi valori di legittimazione del politico. Elaborazione di nuovi valori che richiede sia il coraggio di affrontare il rischio della dispersione connessa alla ricchezza indisciplinata dell'utopia, sia il rischio della mortificazione connessa alla rigida povertà dell'ordine. Allora, come non vedere nella capacità di rendere il politico attuale rappresentativo di nuove e diverse modalità di convivenza, il luogo di applicazione di una istanza di trascendenza, per così dire dal basso, che non può perciò pretendere a monopoli istituzionali e di autorità, ma si mette in sintonia con i bisogni di ciascuno per farne scaturire valori validi per tutti o riconoscibili da tutti. Una trascendenza così intesa può a buon diritto farsi carico della verità del politico, in quanto partecipazione comune all'essere che tutti ci costituisce, in quanto un far accadere l'essere per tutti. Nella trascendenza che si manifesta e agisce come trascendimento storicamente situato, è già all'opera un impegno che sempre può decidere della verità della prassi politica. Grazie. Sento di ringraziarlo profondamente perché non ho elencato prima i titoli perché non li conosco tutti, della sua personalità e della sua funzione di maestro, però quasi ogni frase per me che lui diceva era una specie di titolo rinnovato, nel senso che non erano chiacchiere quelle che lui ci ha fornito, ma erano, diremmo, stimolazioni di un pensiero che a me dispiace solo di non poter leggere meditativamente con serietà, perché purtroppo noi teologi, ecco, siamo abituati a 2-3 idee, maneggiamo solo quelle e abbiamo paura che vengano esportate, dicevo all'inizio io, ma ci siamo accorti, ci accorgiamo, e forse per il certo numero di teologi che sono qui, quelle idee una volta esportate sono come i nostri emigranti che sono andati in America e sono tornati più ricchi. Sono tornati portando una ricchezza di prospettive che io, mentre lei parlava, continuavo a vederne l'applicazione analogica alla Chiesa di oggi. E addirittura mi sono richiesto per l'ennesima volta se questo mistero, diremmo, dell'addio eventuale alla trascendenza, dell'addio a Dio, che sembra caratterizzare l'illuminismo ma la cultura moderna in particolare, non corrisponda a un procedimento provvidenziale di quel Dio il quale si fa presente proprio in quanto invisibilis, nascosto. E noi continuiamo a parlare di rivelazione come se fosse lo svelamento assoluto di Dio. Mentre forse, mentre lei, ecco, dico quello che io pensavo, mentre noi dobbiamo ancora di più di prima pensare come la stessa rivelazione che privilegia il cosiddetto filone biblico e che culmina in Cristo, è una rivelazione di un Dio il quale domanda di nascondersi per promuovere in un certo senso l'uomo. Lui accennava il fatto che in questo moderno, tutto sommato, quell'etsi Deus non daretur, questo Dio nascosto che viene quasi emarginato, in fondo ha prodotto di valori, ha fatto produrre di valori, e adesso noi dobbiamo raccoglierli. Pensate solo la dinamica delle riflessioni sull'ordine, sull'unità, la regolarità, che sembravano dominanti esclusivamente nella teologia e nella Chiesa. Adesso il discorso è anche di dare spazio alla cosiddetta irregolarità, di ciò che mette in moto l'utopia, anche se appare eccessiva, privilegiante l'eccessivo, ma in fondo è l'escatologico. Ecco, come questi discorsi diventano importanti. Così questo passaggio dall'attenzione alla legittimazione del vertice alla legittimazione dei rapporti interpersonali, e noi parliamo allora del consenso, del sensus fidelium, dei carismi, delle differenze, eccetera. Tutti i discorsi che io, mentre lei parlava, ripensavo, riattualizzavo sul fronte, diremmo, della teologia. In questa maniera io già soltanto così messo in moto da furbo, perché non me ne intendo molto di politica, di filosofia politica, ma mentre lui parlava tentavo di rimasticare le stesse cose che lui diceva dal versante teologico. Ma ho appena abboracciato qualche reazione e adesso diamo spazio a una discussione. Però l'aspetto contenutistico delle relazioni io lo lascio veramente a una regia, se vuole, a Nicoletti. Casomai tu prendi in mano l'aspetto, diremmo, direzionale di questo nostro dibattito. E quindi adesso a distanza chiedo a te, sbaglio se chiedessi per esempio di restare qui per una mezz'ora di discussione, poi dalle 5 e tre quarti alle 6 fare uno spazio, un break per una specie di rifocillazione di aria, proprio nella povertà, scarsità di mezzi, qui vuol dare proprio chi vuole andare anche al bar per prendere qualche cosa, e poi dalle 6 alle 7 dare spazio, 6 e tre quarti, quanto sarà? Alle 7 l'altra relazione, e poi restare qui un altro tre quarti d'ora, mezz'ora, tre quarti d'ora, in modo da declinare una partenza da qui verso chi deve andare a cenare e a portarsi su a Villa, come si chiama, o Santissima, su verso le 8, dare l'impegno per le 8. Cosa vi pare di questo discorso, che non è di potere, di autorità, eccetera, di consenso, richiesta? Voi sareste d'accordo di discutere un po' per svegliarci una mezz'oretta fino alle 5 e tre quarti e poi riprendere la relazione del professor Perone alle 6, fino alle 6 e tre quarti? Allora proviamo. Io ho acceso una miccia ex fronte teologorum. Adesso se c'è qualche altro che vuole intervenire, vedo già una mano. Sì, tu, Dianice, vuoi dire qualcosa? Avevo fatto la domanda, pensiero l'avevo, solo una domanda, sono rimasto un po' stupito. Il marxismo non appartiene al moderno, giusto? Cioè in questo filone che posto ha, e forse la salvezza necessita. è più sul versante della regolarità o della utopia o dell'irregolarità? Ecco. Sì. O è stato prima irregolare e adesso diventa regolare? Ecco una prima domanda. Chi c'è? Tu, Don Marcello? A te è stato utile sentire il problema del conflitto che viene stemperato. Credo che tante volte abbiamo una tremenda paura proprio anche inizialmente, fisiologicamente, del conflitto. Per cui più che parlare di persone che vivono la Chiesa, parliamo di Chiesa istituzioni. E preferiamo i rapporti tra istituzioni per lasciare che si taccia il conflitto. Questo è un elemento che emerge, direi non solo politico, ma anche a livello religioso. E anche un'altra riflessione che sul tipo di conflitto, per esempio, una difficoltà che emerge anche a livello chiesa, ma che emerge continuamente a livello religioso, è il tema dell'eresia. Cioè il tema dell'eresia è sempre qualcosa di accantonato, perché diventa in fondo più distrutto e viene recuperato perché va in semplicemente in seconda istanza, cioè quando in un conflitto con secoli si è stemperato. Ecco, uno dei problemi credo che coinvolge sia la teologia da una parte, sia però anche il problema con la morale. Ma io appoggerei queste tue domande perché non sono di Milani, sono di tutta la teologia contemporanea, no? E addirittura mi pare in una dispensa, o forse tu Nicoletti ci accenni, o Ruggeri, non so, che fa risalire solo a Pio X secondo una certa attenzione positiva al conflittuale nella Chiesa. Mentre io mi ricordo i miei anni, ho studiato anche nell'enciclica quadragesimo anno, per la prima volta rispetto a Leone XIII si affronta il tema della lotta di classe, distinguendo tra la lotta intesa nel senso, diremmo, di guerra, di polemos, espressione di violenza, alla lotta come un aspetto di valore. Però su questo punto la Chiesa e la teologia rimane ancora, come dice lui, reticente a paura. E lo stesso altro discorso dell'eresia, che a livello ecumenico ormai è stato acquisito. Bisogna avere il coraggio di guardare non solo il filone ortodosso di ogni Chiesa, ma anche quei filoni che noi abbiamo emarginato e abbiamo dichiarato con disinvoltura eretici, in quanto quelli più studiati a fondo diventano, diremo, cespiti di attenzione a dei valori. Ecco il problema che io sento. Bene, allora diamo la parola al professor Totaro, che potrà almeno, se dopo resta qualche minuto. Teme che ci sia troppo peso sulle mie spalle, ma siccome le spalle hanno una certa misura, tutto quello che cede rispetto a questa misura cade fuori, quindi il peso scivola. No, voglio dire che è stato interessante aprire tutta questa batteria di problemi. Con le mie povere risposte non presumo di dar fondo alle questioni che sono state introdotte. La prima domanda era del professor Dianic: il marxismo come si colloca in questo discorso? E in realtà, mentre io scrivevo, lo volevo piazzare il marxismo nell'arco delle cose che ho detto, però per piazzare il marxismo in questo discorso, oltre che allungarlo notevolmente, avrei dovuto considerare un caso in cui ordine e disordine, se volete, regolarità e irregolarità si incontrano nelle modalità abnormi, se volete, che conosciamo. Questa abnormità è innanzitutto costituita dal fatto che il marxismo progetta un superamento della politica, come sappiamo, attraverso un rigonfiamento immediato della stessa politica. Quindi superare la politica attraverso l'enfasi della politica, delle sue strutture, delle sue istituzioni. Poi il leninismo rende ancora più cogente questo discorso della enfasi immediata sul politico. Ecco, se non che questo rigonfiamento immediato del politico poi ha portato alla alla cristallizzazione del politico e delle sue strutture mastodontiche. E quindi tutto ciò ha incuneato nel progetto marxista una contraddizione grave, che tutti conosciamo, su cui non sto a spendere altre parole. E allora parlare del marxismo vuol dire insieme fare la critica sia della politica dell'ordine sia della politica del disordine, perché l'incontro che è bene avvenga tra queste due componenti è un incontro rischioso, è un incontro che può avere anche molti aspetti negativi nella sua realizzazione. Quindi nel marxismo c'è una salvezza o una istanza di salvezza, un progetto di salvezza che produce conseguenze distruttive? Beh, in parte sì. È chiaro che per me non hanno senso discussioni, sarebbe stato meglio se la rivoluzione d'ottobre non fosse accaduta. Non sono nemmeno incline a condannare o a sbarazzarmi del patrimonio che il marxismo ha introdotto a livello di categorie, a livello di comprensione dei conflitti storici e via dicendo. Quello che dico è che la contraddizione in cui il marxismo è incappato oggi è al centro della nostra attenzione e forse mette in ombra gli altri aspetti, anche gli aspetti sicuramente positivi che l'esperienza storica del marxismo ha avuto. Naturalmente qui dovremmo disaggregare marxismo teorico dal marxismo storico, socialismo come progetto da socialismo come socialismo realizzato, è una serie di distinzioni che è bene introdurre. Ecco, concludendo su questo punto, concludendo per quanto adesso è bene che io dica, il marxismo rappresenta da un lato il culmine del riempimento etico della politica di cui ho parlato nella mia relazione e insieme rappresenta a livelli così alti questo riempimento etico della politica da progettare il superamento della stessa politica. Ecco, in questa misura io penso che siamo post-marxisti perché siamo nella condizione culturale di accettare la costanza della politica e quindi anche la costanza del politico in quanto elemento di durata e di produzione di continuità delle forme che si manifestano nel sociale. Ecco, dal politico quindi non si può prescindere, cioè quell'esigenza di ordinamento che nel politico si rivela, stando ovviamente nell'ambito delle competenze culturali che noi oggi abbiamo acquisito, si rivela come non superabile. Ecco, la formalizzazione politica è qualcosa di costante nell'esperienza dell'uomo. Ecco, d'altra parte, siamo post-marxisti perché nella sua fase di transizione il marxismo aveva enfatizzato il politico teorizzando la totalità del politico. Anche in Gramsci noi leggiamo che tutto è politica. Bene, oggi noi ci mettiamo in una prospettiva nella quale affermiamo che la politica non è il tutto, non è la totalità, ma è una parte, anche se questa parte deve porsi in correlazione ermeneutica con le altre dimensioni dell'umano. E in questa misura deve avere un'apertura totalizzante, ma senza porsi attraverso questa apertura totalizzante come totalità. Pena la fagocitazione di altre dimensioni che sono ugualmente importanti ed essenziali. Ecco, per tutti questi aspetti io direi che siamo post-marxisti, per questi aspetti che riguardano la relativizzazione della politica e insieme, come dicevo prima, la consapevolezza che il politico è ineliminabile. Quindi il politico è ineliminabile ed è insieme una dimensione relativa dell'umano. Ecco, queste due acquisizioni, secondo me, sono acquisizioni che appartengono al post-marxismo. Don Marcello Milani parlava del conflitto del suo stemperamento. Senta, quando io eccedo nelle risposte, lei me lo dice, così io sintetizzo. Quanto tempo a disposizione? Non sono molti, allora cercherò di affrettarmi. Il conflitto, la legittimazione del conflitto è un problema molto spinoso e di non facile soluzione, in linea generale. E cioè, il conflitto viene per lo più accettato come dato di fatto. Il conflitto è fattuale. Ci sono poche filosofie, ma forse anche poche sociologie, che teorizzano la bontà del conflitto in quanto tale, in quanto cioè rimanga conflitto. Anche i sociologi del conflitto ne parlano in termini positivi, in quanto il conflitto è produttivo di realtà positive in cui si raggiunge l'accordo. Questo nella cultura sindacale, per esempio, è un tema molto insistito, no? Il conflitto, bisogna andare al conflitto perché attraverso il conflitto poi si produce un accordo che è utile sia agli operai sia ai padroni, agli imprenditori. Mentre l'affermazione della trascendentalità del conflitto è un'affermazione molto difficile, quasi irreperibile. Un'accusa di questo tipo, per esempio, di non prendere in considerazione il conflitto, è stata fatta ad Habermas. Cioè, la razionalità comunicativa in che misura prevede il conflitto? In che misura lascia stare il conflitto? Cioè, il conflitto finora è stato recepito sempre come fattualità e mai come valore, e quindi come punto di arrivo. E questo è un problema anche per me. C'è un'aporia della conflittualità su cui bisognerebbe riflettere più attentamente. All'osservazione di Penso, come intendi l'utopia? Beh, l'utopia sicuramente ha un versante di tipo geometrico, che è quello per cui l'utopia programma tutto, definisce tutto, sa già tutto quello che deve avvenire. Ma io penso a quella riflessione, a quella rielaborazione dell'utopia che c'è stata soprattutto nel nostro secolo, mi riferisco in modo particolare a Mannheim, che dal punto di vista metodologico è quello più nitido, e in cui l'utopia non solo non deve predeterminare tutto, ma deve essere disposta al suo superamento. E quando l'utopia non è disposta al trascendimento dei suoi contenuti, diventa ideologia, si cristallizza, no? Ecco, quindi penso che l'utopia così pensata non soggiaccia nemmeno alla obiezione popperiana. Popper rappresenta un'utopia di tipo geometrico, la pianificazione, insomma, è la bestia nera di Popper. Al professor Segalla ho risposto, penso implicitamente, rispondendo a chi è intervenuto precedentemente. Rizzi, scusa se non ti chiamo professore, parlava della dimensione teologica dell'ordine sociale e dell'ambivalenza del teologico, cioè il teologico fonda l'ordine e insieme lo spezza. mi ha accostato a Moltmann Betts, lo ringrazio di questo accostamento che mi lusinga. Nella esposizione che io ho fatto, con tutta certezza, diciamo, mi sono sentito di affermare che se vediamo le cose non a livello di definizione puramente teorica, ma nel contesto storico, possiamo vedere in realtà lo svuotamento del teologico a seguito della capacità fondativa che il teologico manifesta nei confronti del politico. Cioè la vicenda del moderno è questo strano gioco, no? Di riempimento e di svuotamento, una specie di clessidra. Quando il tempo è realizzato, al tempo stesso la clessidra si è svuotata. E così mi pare sia successo per il teologico. Adesso si tratta di ripartire dal teologico, però puntando su una trascendenza dal basso, quella trascendenza della comunicazione quotidiana, e che tra l'altro sta molto a cuore anche a te, no? Sei un maestro di queste tematiche. Ecco, per riteologizzare in modo diverso, e quindi per creare ordinamenti diversi da quelli del politico che si configura dall'alto. La scarsità, il tema della scarsità. Ecco, io ho messo in evidenza la evanescenza della scarsità come motivo di incitamento all'agire etico, perché appunto la scarsità è qualcosa di cui noi diciamo, di cui noi soggetti vincenti della storia, noi soggetti eurocentrici e via dicendo, noi a cui ci pagano i debiti paesi a cui pagano i debiti i paesi del terzo mondo, no? Quindi noi del nord. La scarsità noi la predichiamo sempre degli altri, a proposito degli altri, non a proposito di noi stessi. Anche la stessa devastazione ecologica che noi paventiamo come fattore di scarsità per noi stessi non è diventato un caso politicamente decisivo, è piuttosto un tema presente nell'agenda culturale più che politica. Altrimenti ci procureremo quelle istituzioni internazionali, di governo internazionale, che pure sono per esempio presenti nella Sollicitudo Rei Socialis, secondo me una delle encicliche più riuscite di Giovanni Paolo II. Cioè non siamo in grado di assumere la scarsità come elemento produttivo di politica e quindi di istituzioni politiche, di ordinamenti politici. Allora la scarsità non è caso decisivo. La scarsità è ciò di cui patiscono i popoli del sud, i popoli sottomessi, i popoli vinti e via dicendo. Ecco, per quanto riguarda l'osservazione di Boff, utopia ed escatologia, sì, è più rivolta ai teologi, quindi io non dirò silete teologi in questo caso. Dovrei dire loquimini, dico bene, se ricordo bene anche il latino. Ecco, professor Giannone, cambiamento della politica e interesse per il sociale. Facciamo attenzione però, a mio avviso un interesse esclusivamente sul sociale è perdente. È perdente e ribadisce l'alibi del politico, il quale se ne sta nel fortilizio delle sue istituzioni e lascia fare attorno alle mura di questo fortilizio. No. Il sociale deve penetrare nella cittadella del politico istituzionale. Il sociale deve diventare elemento di nuovo ordine. Se non avviene questo, allora il sociale si abbandona alla espressività. E questo è un difetto di socialità, non un pregio. Ringraziamo il Totaro e io sono contento certamente di non avere autorità, potere, però permettete che almeno dal basso dica: cercate di essere puntuali per un quarto d'ora, essere qui, non ve lo impongo, ma auspico.